Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Urbano Cairo, 57 anni, sposato, 4 figli, imprenditore, editore, presidente del Torino. Laura in Bocconi, lavora con Berlusconi per 3 anni, poi nel 95 fonda la Cairo Pubblicità. Editore di successo di carta stampata, guadagna con i giornali e vende 1,9 milioni di copie la settimana. È socio di minoranza dell'RCS e nel 2013 acquista da Telecom la 7 e la Risana. Da 10 anni è il presidente del Torino Calcio, rilevato da un fallimento. Prima rifiutato, poi tollerato, infine amato dai tifosi. Lunedì scorso era a Superga con loro a ricordare il grande Torino. L'ho incontrato al Festival della TV di Dogliani. Presidente Cairo, in casa sua sentiva parlare del grande Torino? Beh sì, mia mamma era una grandissima tifosa del Toro. Sì. Mi raccontava dov'era quando successe la tragedia. Tutti se lo ricordano. Ritornò a casa piangendo. Tremendo. È una cosa che mi... Ma e quando ha deciso di comprarlo il Toro? Ma il Torino a un certo punto è fallito purtroppo nel 2005 e a un certo punto mi ha chiamato il sindaco Chiamparino per chiedermi se la cosa poteva interessarmi. Io ci ho pensato poco. La mamma, che in genere una donna prudentissima, in questo caso era invece mi spingeva fortissimamente per prendere il Toro. Diciamo che io ho imparato, diciamo, a mie spese in questi 9 anni e mezzo, quasi 10 da presidente, a non fare promesse incaute tipo questa, ma anche perché c'è un fatto importante, cioè il Torino oggi fattura 60 milioni rispetto ad una Juventus che ne fattura 300. Diciamo, una soddisfazione al derby se l'è tolta, al Torino dopo 20 anni ha vinto il derby con la Juve, sarà stato contento, no? Quello sicuramente. Grande emozione. Grande gioia perché 20 anni erano tanti. Poi addirittura Andrea Agnelli mi prese in giro dicendo: ma non solo non vincete, ma non segnate neanche da 15 anni. Da quando l'ha detto abbiamo fatto 3 gol e vinto la partita. Vabbè, è andata bene. Però questa Juve che avete battuto, 4 scudetti di fila, li ha vinti. Siamo in semifinale a Champions League, un po' di tifo per la Juve, almeno per la Champions League lo fa o no? Io non ho mai tifato Juve in vita mia. Quanto conta l'allenatore in una squadra di calcio? Ma io credo che l'allenatore conta molto. Peraltro devo dire che quando io cambiavo gli allenatori mi dicevano: ma compra i giocatori invece di cambiare allenatori. Quindi, come dire, l'allenatore conta, però poi i giocatori sono fondamentali. Non mi ha detto quanto io conta. Io dico 50%. 50%. 50% lo ecco, lo lei dice sempre, l'ho letto più volte, dice: io guardo negli occhi le persone e capisco tutto. Negli occhi di Ventura, che cosa ha visto? Beh, quando l'ho incontrato, ho visto in lui la voglia di rivincita, perché era stato esonerato al Bari, aveva fatto una bella stagione la precedente, poi meno bene, quindi vedevo in lui la voglia di riscattarsi. Questo. Presidente Cairo. E l'anno prossimo inizia un nuovo ciclo con Ventura o lo caccia? Ma no, cacciare no, io ho trovato un allenatore bravo come lui, è un maestro di calcio, mi fa crescere i giovani, quindi Ventura me lo tengo sempre. Senta, Presidente. Il calcio è sempre più importante comunque dal punto di vista economico, dal punto di vista dei diritti televisivi, del mercato, degli stipendi, eccetera. Il Barcellona però ha dimostrato che si può essere grandi anche partendo dal vivaio. Lei ci crede a questa... Assolutamente sì, ci credo molto. Il Torino ha una storia di vivaio molto importante. Noi abbiamo in questo momento 10 giocatori di buon livello che sono del vivaio del Toro, prestati nelle varie quindi società. Quindi è una strada che... Beh, per noi che fatturiamo un quinto dei grandi... Barcellona è andato lontano. Partendo di lì è andato lontano. Sicuramente, sì, ma lui unisce entrambe le cose. Sì. Ha il fatturato adesso, e ha la cantera. E noi cerchiamo cantera, anche noi. E quindi è la strada, sì, la cantera del quella. Torino va bene. E anche cercare giocatori giovani in giro per il mondo. Ecco, infatti lei è bravo, nella campagna acquisti, obiettivamente acquisti e vendite, è bravo, ha venduto gioielli, è ripartito da giocatori meno conosciuti, è difficile fare il mercato nel calcio. Beh, sicuramente sì, poi diciamo che non sono soltanto io ho fortunatamente un bravo direttore sportivo, dei bravi osservatori, che sono loro che ti suggeriscono poi i giocatori sui quali puntare, avendo parlato con l'allenatore, cioè è una cosa che si fa sempre a tre. Il gruppo. Si può per esempio trattenere un calciatore anche sotto contratto ma che vuole andare via? Si riesce? È una cosa difficile, perché nel calcio, come nella vita, in tutte le cose, la motivazione è tutto. Però devo dire, ho visto una trasmissione l'altro giorno molto bella sul grande Torino, dove diceva che Novo a un certo punto ha detto: devo convincere i giocatori più bravi a restare. E devo dire, sta cosa qui mi ha toccato e ho detto devo cercare anch'io quest'anno di convincere i più bravi. I grandi capi riescono a fare anche quello. Senta, ma resta il fatto però che i giocatori italiani nelle squadre italiane sono sempre di meno. È un effetto della globalizzazione oppure c'è qualcosa che non funziona? Certamente c'è una tendenza, siccome i giocatori all'estero sono tanti e molti affamatissimi, per esempio in Africa piuttosto che in Sud America, eccetera, e questi giocatori diventano concorrenti importanti per i nostri italiani. Quindi probabilmente ci dovrebbe essere qualcosa che dice che, come dire, un certo numero di giocatori italiani in campo in rosa ci debbono essere, questo anche a beneficio della come nazionale. Regola, quindi è una proposta da fare? Sì, credo come Federcalcio, come federazione? Sì, ci stiano anche forse pensando, perché in effetti è giusto che ci siano. Ci sono delle rose... Quanti? Io dico su una rosa di 25 giocatori, probabilmente io dico almeno la metà. Ma sono i procuratori che rovinano il calcio oppure no? Ma io direi di no, direi che i procuratori, diciamo una cosa... Non sono il cancro del calcio? No, il cancro no, ci sono procuratori molto bravi, molto capaci, che hanno giocatori tra l'altro molto per bene. Tu li vedi, i procuratori... Ma non è che ne vendono uno per l'altro? No, ma io dico chiaramente... Compri uno, te ne do due... Il procuratore, come l'agente anche di star, conduttori, eccetera, cerca di sviluppare al meglio le capacità economiche del suo assistito. Ma li teniamo buoni, sti procuratori? Sì, è necessario, vabbè. Mi rendo conto che non si può fare altro. Ecco, un cancro però sicuramente lo è il rapporto malato che hanno molte società con gli ultras e con la loro violenza, è così? Sì, anche se devo dire che poi mi sembra che ci siano molte prese di distanza di sì, presidenti. Ci sono prese di distanza, così... però ci sono anche tante società che assecondano il peggio del tifoso. Sì, molte diciamo lo fanno, che talvolta, diciamo la verità. Talvolta questo accade e non deve accadere, perché sicuramente il calcio e lo stadio deve essere veramente un momento in cui la famiglia va allo stadio con i bambini. In Italia famiglie che vanno allo stadio con bambini non è che sono così diffuse, perché hanno abbastanza paura. Sì, questo non deve... Credo che debba essere... I giocatori che vanno a parlare con gli ultras, insomma, è sì, complicato, è un rapporto difficile. Ci sono situazioni brutte che sono accadute e non sono da ripetere sicuramente, ma la violenza comunque è un fatto negativo, perché in qualche modo induce le persone a fare delle cose diverse da quelle che vorrebbero. Tito però, che è un presidente che non è simpatico in generale, però è uno che ha rotto il ricatto degli ultra, è riuscito a romperlo. Perché non lo fanno tutti come ha fatto lui? Beh, sicuramente lui ha avuto diciamo una bella... È stato molto duro. Una molto. Bella forza per farlo, ha rotto diciamo certi meccanismi che andrebbero sicuramente rotti anche da altre parti. Noi non è che siamo, noi il Torino non è che è ostaggio di nessuno. Presidente Cairo. Senta, ma lei si considera uno che ci capisce di calcio oppure no? Guarda, io in realtà da calciatore giovane, da ragazzino, giocavo a calcio, ero una alla destra, driblomane, e quindi diciamo che io non ci capisco di calcio. Non ci capisco. Non ci capisco. Ma e quindi ho imparato un pochino adesso, in questo ultimo periodo, avendo un maestro di calcio come Ventura, ha insegnato calcio. Ah, quindi ci capisce di più Ventura, allora, diciamo. Beh, sicuramente. Sicuramente. Ecco, no, senta cosa diceva l'avvocato Agnelli del suo uomo Juventus, che era Giampiero Boniperti. Senta un po'. Ma di calcio ci capisce più lei o Boniperti? Senta, lui ha giocato, e per capire bene il calcio il parere di quelli che hanno giocato, e capisco che certamente vale di più di quelli che non hanno giocato, quindi senza dubbio lui. Le sciocchezze ne ha fatte come? Qualcuna me la dice, l'ultima. E ne dico una divertente, una storica. Clamorosa, una divertente e clamorosa. Siamo ai campionati del mondo in Argentina. Io ricordo, telefono a Boniperti, gli dico: Boniperti, mi hanno segnalato un giovane che ha delle doti eccezionali, ti prego di farlo guardare. Poi dice: avvocato, lei ce n'ha sempre una nuova. Dico: si chiama Maradona. Ho detto: questo nome che sembra una bestemmia, non mi stia a scocciare. Dico: Boniperti, guarda che deve essere qualcuno. Risposta di Boniperti: se fosse qualcuno lo saprei. Non male, non mi male. È sembrata abbastanza buona. E li suggerisce anche lei così avventura per telefono? No, ma io non so. No. Ma nel calcio è entrato per emulare Berlusconi? No, io... No? Allora, a me, io giocavo a calcio e non credo che Berlusconi giocasse a calcio. Sì, anche lui giocava a calcio. Giocava anche lui, sì, ma non, sì, sì, non ho visto gesta straordinarie. No, neanche io, per la verità. Però, insomma, io sono entrato nel calcio perché mi piaceva giocare. Sì. E non ero diventato calciatore, ho detto, divento presidente. Ma allora che cosa hai imparato da Berlusconi, visto che ha lavorato con lui? Beh, lui mi ha insegnato sicuramente una grande... la voglia di rimanere sempre sul pezzo, di non mollare mai, di avere anche magari un pensiero diverso da quello che è il pensiero comune, eccetera. È stato veramente, per me è stata una... Io ho cominciato con lui a 24 anni, appena laureato, e 3 anni con lui da assistente personale, è stata una grande scuola. Ma quando ha capito che doveva mettersi in proprio, ha detto, ho lavorato con Berlusconi, cioè, ma poi ho deciso di andare da solo. Ma quando l'ha deciso? È sempre stato il mio desiderio da quando ho cominciato, anzi da quando ho cominciato con lui, la mia idea è sempre stata quella di un giorno di mettermi in proprio. Poi ho avuto opportunità varie e non c'era stata l'opportunità, e poi però a un certo punto mi hanno licenziato. Ah, bene, perfetto. Da dove l'hanno licenziata? Dalla Mondadori. Ah, certo, è vero. Dalla Mondadori pubblicità. Sì, sì. Senti, quindi... ma Berlusconi l'ha aiutata in questa sua escalation? No, mi ha aiutato quando ho fatto il suo assistente e mi ha lasciato vedere cosa lui come si fa. Come si fa, nel senso, come si opera. Io chiedo perché quando io 3 anni fa ho chiesto all'ingegner De Benedetti perché non comprava la 7, senta cosa mi ha detto. 2 anni fa noi parlavamo della possibilità che lei rilevasse, si parlava della possibilità di rilevare la 7 di Telecom, poi l'ha comprata Cairo invece. È pentito lei o no? No, perché la cosa dipendeva da Berlusconi. Non è che dipendeva da Cairo. Vabbè, quindi lei aveva poca chance. Zero chance, perché dipendeva da Berlusconi. Sì. L'ha detto l'ingegner De Benedetti. Lei invece l'ha comprata, quindi Berlusconi gliel'ha lasciato fare. Quando l'ho comprata io, allora, io l'ho acquistata nel marzo del 2013 e quindi Berlusconi non era Presidente del Consiglio né altro. Berlusconi, secondo me, aveva un altro candidato. Chi era? Che preferiva, che era Clessidra. Sposito. Per cui non ero certamente io il candidato. No, quindi non era il candidato di Berlusconi. Non ero io, assolutamente. Va bene. No. Senta, comunque la 7 era un disastro, effettivamente era un disastro. Perdeva 100 milioni l'anno, lei in 2 anni l'ha risanata senza licenziare nessuno. Qual è il segreto? Beh, ci siamo messi al lavoro velocemente. Sì, vedendo... no, ma il segreto. Sì, ma abbiamo tagliato i costi, perché lì il tema era, c'erano 225... Però non ha licenziato nessuno. No, però c'erano 225 milioni di costi e ricavi per 120 milioni. Quindi io ho voluto tenere tutti, quindi 420 dipendenti, che costavano 38 milioni, e poi sono intervenuto sugli altri 185 milioni tagliandoli per la metà. Tagliato metà dei costi, tenendo tutti i migliori conduttori, Mentana, La Gruber, Formigli, Santoro, Crozza, e addirittura alcuni pagandoli anche di più. Non ha licenziato nessuno, è andato in pareggio. Bravo, ma... Guarda, io a un certo punto, al primo mese di mia attività in alla 7, mi arrivano con una fattura da pagare, con un bonifico da pagare del valore di 16 milioni. Dico, ma scusate, ma 16 milioni, ma cosa sono? Sì, dice, sono le fatture di tutto il mese di maggio. E dico, ma io vorrei vedere quali sono le fatture. No, ma noi in genere facciamo così. Dico, no, momento, portatemi tutte le fatture. Mi hanno portato un pacco di fatture del genere. Ho cominciato a guardarle tutte, dalla prima all'ultima, partendo dalla più piccola, 150 euro, per arrivare alla più grande. E su tutte le cose, su tutte le fatture mettevo una domanda, una cosa, eccetera, per sapere perché quello era il costo, eccetera, eccetera. E quanto sono diventati quei 14 milioni? E quei 16 milioni sono diventati la metà, dopo un anno. Senta, il Toro l'ha messo in ordine in qualche modo con Ventura, l'abbiamo detto. La 7 c'era Paolo Ruffini, però è andato via, non so, ha fatto da solo alla 7. Sì, ma diciamo che io ho un direttore di palinsesto, che è un ragazzo giovane, bravo, e che mi dà soddisfazione. Poi ovviamente io sono presente al 100%, questo non c'è ma dubbio. È stato più facile risanare il Toro o la 7? Bah, diciamo che la 7 non era una cosa facile, perché 100 milioni erano tanti. Quando facemmo la due diligence e vedevo tutti i costi, io dicevo, beh, taglio qua, taglio là, e arrivavo sempre che mi mancavano 30 milioni, quindi ne perdevo sempre 30, quindi era una cosa che quando ho cominciato avevo, non dico paura, ma era una cosa dove non ero sicuro. Si può anche aver paura di riuscire ad arrivare. No, ma nel senso, non ero sicuro di riuscire ad arrivare a tagliare i costi per 100 milioni in un anno tenendo i migliori e tenendo tutti i dipendenti. Era assolutamente una cosa difficile. Lei però dice che la pubblicità di Mediaset è troppa per gli share che fa. Cosa vuol dire esattamente? Beh, il motivo fondamentale è questo. Ha detto, cioè, una cosa precisa? Sì, ci mancherà. Io dico, loro hanno, come tre reti, Canale 5, Italia 1 e Rete 4, hanno il 27% d'ascolto. In realtà hanno una quota del mercato di pubblicità che è del 50%. Come mai? Quindi hanno l'80% in più. Come mai? Come mai questo 80% perché, in più? Perché da una parte Rai... diciamo ha una quota più bassa, anche perché Rai, tetto. Anche perché Rai, avendo 1600 milioni di tetto, tetto, ha anche fin troppo. E quindi loro tradizionalmente hanno avuto sempre di più. Tradizionalmente? Tradizionalmente. Diciamo. E quindi insomma diciamo che questo è. Dobbiamo intervenire. Senta, Presidente Cairo. Anche la Rai però sulla pubblicità ha fatto una concorrenza spietata. La correnza spietata, leale o sleale? Bah, vede, io dico, la RAI, che ha già, come ho detto prima, 1600 milioni di canone, secondo me dovrebbe cercare, avendo spazi anche più limitati delle reti commerciali, cercare di venderli meglio. La RAI negli ultimi 3 anni ha ridotto i prezzi del 40%. Cioè, lei dice, svende la pubblicità e rovina il mercato, sta secondo dicendo questo? Secondo me ha calato in maniera... Cioè la RAI che ha ascolti importanti, sta dicendo eccetera, che svende la pubblicità, secondo me, e rovina il mercato. Secondo me sì. Secondo me sì. Senta, ma il progetto di riforma della RAI di Renzi le piace? Ma diciamo che per il momento non ho si è visto un progetto in merito prevalentemente alla governance. Secondo lei passerà questa riforma? Ma credo che, insomma, mi sembra che lui abbia i numeri in Parlamento per far passare riforme anche ben più contestate, no? Mi sembra che stia viaggiando a passo di carica, no? Senta, improvvisamente nel mondo della televisione, della Pay, delle telecomunicazioni sta cambiando tutto. Murdoch, Berlusconi, Bolloré, si sta ridisegnando tutto lo scenario del settore e delle alleanze. Come finirà secondo lei? Ha un'idea? Beh, tutto è molto in movimento, dipende molto anche dal fatto che qualcuno entri magari in aziende esistenti piuttosto che invece altre cosa cose. Cosa sta pensando? Beh, Bolloré entra in Telecom adesso. In Telecom e poi Telecom faccia altri accordi. Non lo so. Ma cosa prevede lei? Beh, è un osservatore intelligente e informato. Beh, diciamo che... Qual è lo scenario che le sembra più probabile? Oggi è difficile prevedere qualcosa perché tutto è molto in movimento. Dipende da tante cose. Non riesco a prevedere oggi, è molto difficile farlo. Senta... Però certamente c'è una situazione di concentrazione importante. Noi come la 7 competiamo sul mercato con aziende come Sky che hanno 20 volte il fatturato che abbiamo noi piuttosto che Mediaset o Rai. In questo scenario eventuale possibile, per lei cambia qualcosa? È indifferente? Una piccola televisione generalista come la sua è indifferente a un sistema che si riaggrega in qualche modo? Ma io credo che noi siamo riusciti, diciamo, in questi 2 anni a fare bene, pur avendo una situazione difficile, perché c'era da ridurre perdite molto importanti, la pubblicità non è cresciuta. Io credo che, avendo anche cominciato a capire di più della televisione, credo che possiamo ritagliarci uno spazio anche interessante. No, interessante. Poi è fondamentale avere idee, questo è fondamentale, avere idee, innovare un pochino, sapendo però che la 7 ha un pubblico prevalente che ama certe cose più di altre. E allora parliamo di questo. Sul piano editoriale lei ha fatto una scelta molto precisa, molto forte, molto precisa. Informazione, informazione, informazione, talk, talk, talk. Conferma questa scelta per il prossimo palinsesto? Beh, diciamo che noi abbiamo lavorato molto su quello che era l'approfondimento, che era già una caratteristica di La 7, ma anche perché arrivando e dovendo fare tante cose, io ho detto forse è meglio che non tocchi una cosa che funziona bene, no? E quindi questo è il motivo. Anzi, abbiamo rafforzato una squadra che era già molto forte. Però, diciamo, cambiare radicalmente diventa molto difficile, diventa perché un certo pubblico da noi non viene. Quindi, nel prossimo palinsesto, Paragone, Formigli, Gruber, Santoro, Floris, tutti a posto, tranquilli? Beh, diciamo, vediamo, perché Santoro ha già detto lui stesso... Ma questo non oggi, l'ha detto mesi fa, quindi non che ci per sarà me è l'ultima stagione da conduttore. Poi faremo dei ragionamenti con lui per fare delle altre cose. certamente Mentana sì, è bravissimo. Beh, la Gruber ci mancherebbe altro, Flori sta facendo benissimo, bene, anzi ha superato già un paio di volte Ballarò, certo, e Formigli bene anche lui. Paragoni il mercoledì ieri ha fatto benissimo, quasi il 4%. Senta, ma quando Floris l'ha detto, quando Floris ha superato Ballarò, ha brindato? Beh, era una bella cosa, perché avere superato una trasmissione come Ballarò, che esisteva da 12 anni e quindi aveva l'abitudine di 12 anni, dopo sole 25 puntate, era un grande risultato, grande anche successo. Perché non dimentichiamo che la prima puntata Ballarò fece l'11,5 e noi facciamo il 3,5. Parliamo di conti, parliamo dei conti, i conti dell'RCS, di cui lei è un azionista importante. Per salvare l'RCS lei ha detto l'unica ricetta possibile e tagliare i costi almeno del 20%, lo conferma. Ma io dico sì, per cominciare, perché per cominciare, quando RCS ha un debito finanziario di 482 milioni e ha dei covenant con le banche che dicono che non puoi superare 440 milioni, per recuperare i 42 la cosa che devi fare puoi è tagliare fare i costi solo quello, però, e ritrovare una marginalità positiva. Presidente Cairo. Però lei ha detto i risultati del triennio sono largamente deludenti, ci vuole un cambio di rotta, infatti all'unanimità avete rinnovato Scott Iovine, cioè ha detto che bisogna cambiare rotta, che il triennio è deludente, chi ha fatto quel risultato lo avete rinnovato all'unanimità. Io non ho rinnovato sarà nessuno una strategia, perché, ma è difficile momento, da capire. Io non ho rinnovato nessuno perché io ho presentato una lista di minoranza che ha eletto un consigliere. Poi il consigliere va in consiglio e sarà lui a decidere quello che deve fare. È il suo consigliere, vota all'unanimità, va bene, d'accordo, l'autonomia, indipendenza, vabbè, non importa. Okay, Giovanni, nel momento in cui tu hai una lista di maggioranza che mette Iovane per essere l'amministratore delegato. Ma allora, dato che l'avete rinnovato all'unanimità e lei quando guarda negli occhi capisce tutto delle persone, quando guarda negli occhi Scott Iovane cosa vede? Una luce nuova? Vedo un sacco di perdite per il momento, però speriamo meglio. Senta, alla Alessandra Ravetta, su Prima Comunicazione, lei ha detto un direttore di giornale si cambia solo quando ce n'è uno migliore. Dunque, Fontana è meglio di De Bortoli. Beh, io diciamo che Fontana non lo conosco personalmente, non lo conosco, diciamo, so che lui ha operato in Rizzoli, al Corriere, diciamo, negli ultimi 9 anni, negli ultimi, mi pare, 6, come condirettore, l'hanno scelto, il Consiglio l'ha scelto, io mi auguro che sia bravo, ma spero che lo sia. Ma perché De Bortoli è stato troppo duro con il Presidente del Consiglio? Ma De Bortoli ha scritto in maniera assolutamente libera, diciamo, quello che pensava. Credo e lei lo approvava? Credo che sia giusto. Io non è che lo approvo o non approvo. Io credo che Renzi sia un Presidente del Consiglio che ha certamente voglia di fare delle adesso cose. Adesso ne parliamo. Ah, ok. Scusa. Senta, qua, seduto lì, sulla sua sedia, esattamente 2 anni fa, c'era Renzi. C'era Renzi e abbiamo parlato di tantissime cose. Ed era il tempo del governo Letta. Senta cosa diceva qui Renzi di Letta. Enrico Letta è una persona molto seria, molto solida, è una persona che a dispetto della giovane età, a mio giudizio, ha un'autorevolezza e io faccio il tifo per lui. Enrico Letta è un amico e agli amici si deve, a tutti, ma agli amici in particolar modo si deve la parola lealtà. Anche in politica come negli affari mi sembra di capire che quello che si dice prima conta poco, è così? C'erano sicuramente delle competizioni tra loro. C'era competizione. Senta, ma che cosa la convince di più di Renzi? Ho detto, secondo me è certamente giovane, con energia, con voglia di fare, voglia di cambiare le cose e tutto questo è positivo, anche perché in Italia è giusto, come dire, mettere mano a delle cose che sono un po' vetuste, un po' superate. Poi il tema è come in tutte le aziende, anche l'Italia è una grande azienda, contano i risultati. Le faccio un'ultima domanda. E visto che lei è quello che se guarda negli occhi capisce tutto della persona che ha davanti. Non sempre, non sempre. Sempre. L'ha detto lei, io mi fido. Ma l'ho detto io, ma sì, l'ha detto così io, mi fido. Quindi, quando guarda negli occhi Renzi, cosa vede? Cosa capisce guardandolo negli occhi? Io vedo che sicuramente lui ha voglia di fare un'impresa, che è cambiare l'Italia. E poi io gli faccio un in bocca al lupo, perché è un'impresa non facile. Si fida? Ho detto, sospendo. Si fida? Mi fido. Mix 24. И лампа не горит, и в рот календари. И если ты давно хотела что-то мне сказать, то говори. Любой обманчив звук. Серissima metropolitana. Eh sì, perché oggi è entrato nel vagone un atamano e non ho capito dove possa aver lasciato il suo cavallo, perché il marciapiede intorno alla stazione Cipro si era trasformato in un istante in un sentiero scavato proprio sulla steppa, e i cerchi improvvisi erano quelli che facevano riposare le luci evocate dalle spade nella danza. E dopo, subito dopo, alla fermata successiva, è entrato invece un ammiraglio la cui uniforme era ancora bagnata dai ghiacci, però svelava nel luccichio la brina mista a qualcosa che, ecco, poi un santo monaco ha saputo decifrare. Erano lacrime. E alla fermata Flaminio tutti hanno avuto questa chiara illuminazione, che tutte e tre bambini erano entrati nella ruota della storia per fabbricare il primo cerchio di Solzhenitsyn, per cui erano uno filosofo, l'altro santo e l'altro l'ammiraglio, devastato in un segreto d'amore. Capito Mario, la fermata Flaminio si capisce tutto. Fermata Flaminio. Veramente siamo là, voliamo altissimo, ma nella tua pentola invece dove si vola? Alto, ma abbastanza. No, siccome alla fermata Flaminio c'era un po' di calma, allora ho immaginato che forse era il caso di mettere un po' di rock. Perché me lo state abbassando in regia? Dagli sto rock. Va bene, il Regno Unito. E Giovanni, sono due spunti di riflessione per te, per Pietrangelo e per tutti i nostri ascoltatori. Allora, ci sono state elezioni, sono state anche molto sorprendenti, i sondaggisti hanno avuto una nottata difficile, diciamo. Sì, non ricordiamo una nottata facile per i sondaggisti negli ultimi 15 tempo. Anni proprio. Non ne azzeccano una neanche per sbaglio. Vabbè, mestiere. Scusa. No, vai. Però io penso che non ci siano tutte queste analogie con l'Italia, per esempio, l'Italicum, per esempio, Renzi, per esempio. È vero che sono forze giovani, però Cameron, insomma, è già bello che sperimentato. Merkel è tutta un'altra storia, lo spirito tedesco, e qui in realtà c'è lo spirito inglese. Vi faccio solo un esempio, cioè Cameron è un leader rieletto con un piano futuro di tagli per 12 miliardi nel welfare, 13 miliardi di tagli sulla spesa day by day, 5 miliardi in nuove misure fiscali. Io sfido chiunque in Italia a beccare i voti con un piano del genere, cioè, certo. Vai a casa dopo 5 minuti, perché noi italiani non siamo abituati a sentirci raccontare la verità. Quindi, come in Italia siamo sicuri, insomma, poi fatemi sapere quando ci sarà, avvertitemi, suonate il campanello, fate qualcosa quando ci sarà un partito che al nord prende 56 seggi su 59 dei collegi disponibili e diventa la terza forza a Westminster. Si chiama il Partito Nazionale Scozzese ed è guidato da una donna. Avvisatemi quando succede tutto questo. L'Italia, il Regno Unito, la Germania, mondi diversi. Salamino. Chi glielo doveva dire a Berlusconi che in Campania la campagna elettorale gliel'avrebbe fatta Roberto Saviano? Chi glielo doveva dire? Questa è una giusta notazione di Laura Cesaretti, perché la denuncia di Saviano, quando dice in quelle liste c'è tutta Gomorra, sta trascinando nella polemica tutto il partito di Matteo Renzi. Ed è un fatto, perché a parte i gigli magici al sud, nel mare grande dell'indistinto meridionale, il partito Democratico è già diventato il partito della nazione ed è la lavatrice che pulisce tutto il riciclabile possibile. Ogni amministratore in Campania ha cambiato almeno già 5 volte schieramento e tutta quella rottamazione di Renzi, messa a segno con Rosi Bindi, Massimo D'Alema, Pierluigi Bersani, insomma tutto quel rinnovamento non ha funzionato invece, per esempio, che so, con un Ciriaco De Mita. E gli impresentabili al sud sono inamovibili. Oggi c'è un interessante articolo di Marco De Marco sul Corriere dove parla, a proposito sempre di Vincenzo De Luca, di un progetto antropogenetico. Io sono rimasto affascinato dal progetto antropogenetico, cioè tu prendi uno che è ridotto male, lo trasformi, lo fai nuovo, lo ribattezzi, lo rendi scintillante, meraviglioso. E l'ex sindaco di Salerno rimette i peccati e ricicla professionisti della politica. E se lui, De Luca, salva i peccatori, figurarsi cosa può fare Renzi. Li fa tutti santi e il partito della nazione è fatto, è il partito dei migliori possibili. E i migliori possibili chi sono? Sempre i peggiori. E contro i peggiori quale soluzione? La Carmagnola. Allo suonare d'angascia viva tu buona la pascia, allo suonare d'amore e la sorriso di fuori, allo suonare la campana viva. Adesso, come tutti i lunedì, il lunedì libro di Alessandra Fiori. Così Elvira Sellerio intendeva il mestiere di editore, come tramite di un rapporto bellissimo tra gente che racconta storie e altra gente che le ascolta. La collana La Memoria di Sellerio ha festeggiato quota 1000 titoli con una raccolta di racconti dedicati proprio al ricordo della signora. E le celebrazioni non potevano proseguire che con l'ultima indagine del commissario creato da Andrea Camilleri, raccontata nella Giostra degli Scambi. La giornata di Montalbano si apre nel segno degli equivoci. I fraintendimenti proseguono sulla spiaggia di Marinella e deflagrano con la notizia di un sequestro anomalo. Una ragazza è stata aggredita, narcotizzata e rilasciata illesa. Pochi giorni dopo l'episodio si ripete. È la volta della nipote di Enzo, proprietario della trattoria in cui il commissario ha trovato una seconda casa. Però manca un movente. Mentre a legare i due sequestri c'è solo l'età delle donne e il comune lavoro in banca. Un terzo sequestro e la comparsa di un cadavere aprono nuovi scenari. Intanto Montalbano comincia a sentirsi vecchio, ma come il suo autore sa trasformare una possibile debolezza in un vantaggio. Andando oltre le apparenze e le soluzioni di comodo, utilizzando l'esperienza per scandagliare bisogni e sentimenti, collegando emozioni e moventi, la verità si profila come una giusta ricompensa. La Giostra degli Scambi di Andrea Camilleri, Sellerio Editore. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, 945 57, pubblicità. Mix 24. Lorenzo ci scrive a proposito di quello che diceva Mario sui sondaggi: non le pare che i sondaggi possono aiutare a formare il consenso? L'impressione che spesso sono orientati a seconda di chi li commissiona, certamente chi li commissiona li orienta, ma il risultato non arriva, quindi diciamo che puoi fare tutto lo spin, come si dice, lo spin che vuoi, però la gente per fortuna ancora pensa con la propria testa. Si vota poi. Ancora la bolla di Mario. Fermata Flaminio mi ha dato un effetto contrario, Pietrangelo. Vabbè, Guns N' Roses, inutile presentarli. Raul Castro era in Italia, si è visto convertito con Renzi, si è convertito, fantastica, devo dire. Caro Pietrangelo, i gesuiti fanno quell'effetto. Vabbè, vi segnalo, faccio il cronista, il telecronista di un tempo, te lo ricordi? Allora, sulla destra Minoli, sulla sinistra Avanza Buttafuoco, c'è un problema con la palla e la conversione, gol. Va bene. Allora, Raul Castro era in Italia e Hollande invece è andato all'Havana. Segnalo questa cosa perché il record presidenziale di Hollande è disastroso, come sapete tutti, un presidente veramente anche sfortunato, se volete. oltre ad essere un po' un fit secondo me, ma insomma, la verità è che però un record ce l'ha, è il primo leader occidentale ad essere andato a La Habana dopo il disgelo con gli Stati Uniti. Non è un passaggio così formale, perché nell'isola di Cuba, ragazzi, ci sarà un grande business da fare. Gli americani ci hanno già messo il piede, ovviamente, arriveranno tutti. Chissà se anche noi italiani riusciamo. Beh, noi siamo già buoni frequentatori a fare Cuba qualcosa in generale. Sì. Andrea Alderighi di Milano, che dice? Chiede della parata del 9 maggio a Mosca. A proposito di quella, credo che ci sia da segnalare un'interessantissima convergenza di opinioni tra la lettera scritta da Berlusconi al Corriere della Sera, che diceva forse i leader europei hanno sbagliato a non andare, e il grande vecchio di Repubblica Eugenio Scalfari, che nell'editoriale di ieri dà ragione a Berlusconi. Mi sembra che veramente si muove qualcosa dappertutto. Ma noi qua mi pare che abbiamo diciamo Salamino. Retroscenisti, fuochisti, macchinisti, complottisti, cinquestellisti di tutto e di più, nella tonitruante prosa di Beppe Grillo, partito, lancia e resta contro il complotto della scienza, della ricerca, della medicina e della tecnologia. Insomma, Beppe Grillo ha attaccato le mammografie. Non ha attaccato, non mi risulta, l'esame del PSA per la prostata, ma della mammografia ha detto tutto, perché lì Grillo vede un disegno perfino troppo scontato di controllo dell'umanità in catene. A dargli manforte la combattiva senatrice Paola Taverna, a strutturare il pensiero dei retroscenisti, dei fuochisti, dei macchinisti, dei complottisti, dei cinquestellisti, e la teoria dell'umanità futura di Gianroberto Casaleggio. Insomma, gli New Age domina nel beato mondo grillino, ma il fertilizzante vero, secondo me, è il PC. Non nel senso del Partito Comunista, è il politicamente corretto. Ieri, che era domenica, che era la giornata delle azalee, cioè la vendita delle piante a sostegno dell'Associazione Italiana per la Ricerca del Cancro, ho assistito a un dialogo a Roma, in un banchetto appunto di azalee, dove c'era proprio il cortocircuito del politicamente corretto. No. Cioè, una signora, prima di dare il proprio obolo, Sara, ci sei? Una signora prima di dare il proprio obolo ha chiesto che non un centesimo dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro vada a finire alla sperimentazione della ricerca sugli animali. Urge Elena Cattaneo quando dice, due punti, virgolette, cosa diranno i nostri figli o nipoti quando scopriranno che alcuni hanno lavorato per determinare il peggio? Lo disse Sara in difesa della ricerca e della sperimentazione sugli animali. Prima del file di uscita, la tua parola? Io sono contraria alla sperimentazione sugli animali solo quando sperimentano i trucchi o le creme di bellezza. Per la scienza va fatto. Bravissima, e perciò la pastiglia. Le pastiglie glicero fosfato promodele visionate di bicarbonato porotalca semeline cataplante semolina una gustata fiorellina mortadella di panini con un mezzo di terina un caffè con caffeina grammi 003. Ancora la bolla, Mario? Vai. Sotto gli occhi da sempre distratti del mondo. Questo è bello, eh? Grande Liga, abbiamo fatto una carrellata di rock in giro per il mondo e andiamo in Arabia Saudita, che secondo me è l'Arabia esaurita in realtà. Non voglio essere ironico, perché forse si è esaurito un ciclo, anzi senza forse. Stanno cambiando le cose anche lì. Sì, e il re Salman ha annullato, questa è clamorosa davvero dal punto di vista diplomatico, il vertice di Camp David, dove sarebbe dovuto andare insieme agli altri emiri del Golfo, chiamato da Obama a cercare di parlare sul come stabilizzare la regione, che è letteralmente in fiamme. Cambia anche lì. E Questo è un brutto segnale per Washington, perché significa, molti lo interpretano come un raffreddamento ulteriore dopo i colloqui aperti con l'Iran. Sapete tutti, lì le due potenze regionali sono l'Arabia Saudita e l'Iran. Cioè... E gli Stati Uniti non possono stare con tutte e due nello stesso modo. No, difficile. Dopo il giornale radio, a proposito di Stati Uniti e della loro storia, dopo il giornale radio, dicevo, Marina Milone, che cosa ci racconti per la storia? Raccontiamo la storia della CIA. È una storia di intrighi internazionali, degli interventi dell'agenzia nel mondo a partire dal 1943 fino al tentativo di invasione di Cuba e poi l'omicidio Kennedy. Ne parliamo con Guido Limpio del Corriere della Sera. Bene, dopo il giornale radio, la storia della CIA. Prima della pubblicità, acqua e sapone degli stadio.